Letture di Radio 24. Quante volte, cercando di ordinare qualcosa da un sito internazionale, ci si imbatte nella frase «si spedisce in tutto il mondo tranne in Italia». Tra ritardi, pacchi che spariscono e code interminabili agli sportelli, le Poste italiane sono ormai conosciute in tutto il mondo per la scarsa efficienza. Eppure l'azienda, ormai prossima alla privatizzazione, sembra sempre meno propensa a investire sui servizi postali e sempre più orientata invece verso le attività parallele, dalla vendita di gadget ai servizi finanziari, dalle ricariche per cellulari alle polizze. Il bilancio di chiusura 2013, presentato poche settimane fa, mostra che i conti sono in ordine, anzi di più, in attivo. L'utile dello scorso anno ha superato il miliardo di euro. Scartabellando tra le cifre, però, si scopre che i guadagni arrivano tutti da attività che propriamente postali non sono e che invece tutte le perdite arrivano dal servizio, ossia dalla gestione della corrispondenza e delle funzioni tradizionali per cui le poste sono nate. Il bilancio parla chiaro. La voce servizi postali e commerciali ha portato ricavi per soli 4 miliardi 452 milioni di euro, cioè il 4,4% in meno rispetto al 2012, quando gli incassi erano stati di 4 miliardi 657 milioni, in ulteriore contrazione rispetto al 2011, quando erano stati di più di 5 miliardi. Tutta un'altra musica, quella che riguarda i servizi finanziari, hanno portato nei forzieri di Poste italiane 5 miliardi 390 milioni, ossia l'1,5% in più del 2012. Tra i dati migliori, quelli della carta di credito prepagata Poste Pay, che è leader di mercato con 12 milioni di carte diffuse sul territorio nazionale, e dei servizi assicurativi di Poste Vita, che hanno emesso in un solo anno il 25% in più di premi rispetto al 2012. Anche Poste Mobile, la compagnia telefonica, che pure se la deve vedere con colossi internazionali del settore, si difende con i suoi 290 milioni di euro di transazioni. Insomma, va tutto bene, anche se mentre si è in coda allo sportello o si aspetta per settimane una lettera, si può stentare a crederlo. La ragione dei disservizi che toccano gli utenti tradizionali, quelli che combattono ogni giorno con francobolli e bollettini, potrebbe annidarsi nella serie di corposi tagli al personale che prevedeva entro lo scorso 7 ottobre l'eliminazione di circa 6.000 portalettere, 4.600 zone di recapito e 1.407 centri di meccanizzazione postale. Un dato che il bilancio di Poste non nega, anzi conferma con la forza dei numeri, poiché solo il 12% degli investimenti dello scorso anno, circa 504 milioni, ha riguardato appunto le attività di logistica postale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luciana Grosso, Le poste a due velocità, bilancio su, servizi giù, dal venerdì di Repubblica dell'11 aprile. Letture di Radio 24. Tra gli episodi sommersi della Resistenza c'è anche la storia di due giovani innamorati, Gianna e Neri, due partigiani scomodi, condannati a morte dai loro stessi compagni. La loro triste vicenda viene ora raccontata da Mirella Serri nel libro Un amore partigiano, pubblicato da Longanesi. Staffetta partigiana lei, anzi collegatrice secondo la terminologia di allora, comandante garibaldino lui, con il grado di capitano e soprattutto in possesso di troppe doti, coraggio, capacità organizzative, sensibilità umana, onestà e mancanza di carrierismo, perché i suoi stessi compagni possano perdonargliele. Amanti totali, i due, nel modo che soltanto l'esperienza della guerra civile genera a volte, in simbiosi ideale, prima ancora che fisica e sentimentale, tra uomo e donna. Ed entrambi credenti, per di più, nel senso in cui la fede politica poteva essere intesa allora. Comunisti perché soltanto il partito con la maiuscola, con la sua promessa di riscatto e l'organizzazione politico-militare capillare, sembrava costituire un'opposizione credibile al fascismo. Mirella Serri ci fa seguire dunque la crescita parallela di Gianna e Neri, entrambi nomi di battaglia partigiani, destinati a oscurare nel tempo e nel mito le reali generalità anagrafiche, sullo sfondo del comasco. Ne tratteggia l'ambiente di origine, in entrambi i casi famiglie povere, naturalmente antifasciste per coscienza di classe. Fa emergere il carattere determinato ma razionale di Neri, la sua fedeltà alla causa, ma anche l'indipendenza di giudizio, pronta a denunciare gli autoritarismi e la corruzione presenti fra i suoi stessi compagni, e anche la dedizione della Gian all'ideale comunista, scaturito molto femminilmente per fedeltà alla memoria di un primo amore, scoperto e giustiziato dalle Brigate Nere. Incredibilmente giovani sono il lui e la lei di questa storia più grande di loro. 33 anni l'uomo, 22 la ragazza quando cadono sotto i colpi dei loro compagni, falsamente accusati di aver ceduto alle torture e alle promesse dei fascisti e di aver rivelato alcuni nascondigli di partigiani garibaldini. Talmente giovani che si stenta a credere come abbiano potuto bruciare in un tempo così breve una simile quantità di esperienze, emozioni, illusioni e tragedie. Con sapienza narrativa, oltre che solida documentazione storica, Mirella Serri fa crescere nel lettore, pagina dopo pagina, il fatale presentimento di ciò che non potrà non accadere. Troppe le avance respinte dalla bella Gian, anche quando i capi partigiani desiderosi delle sue grazie si fanno minacciosi e insistenti, e troppe le critiche aperte di Neri di fronte alle ruberie e violenze in atto nel suo stesso partito, perché la conclusione della vicenda possa non essere tragica. E infatti, dopo che entrambi sono passati con schiena dritta e fisico devastato attraverso le camere di tortura fasciste, a lui e a lei viene riservata all'indomani della liberazione la stessa sorte. Vengono prelevati, lui in macchina e lei in motocicletta, accompagnati sulle rive del maledetto lago di Como, e infine assassinati nel modo più brutale, facendo sparire i corpi con tecnica da NKVD sovietica. Un colpo alla testa e uno al ventre, così il cadavere succhia e va a fondo più rapidamente. E in seguito, come denuncia l'autrice nell'epilogo del libro, Gian e Neri verranno rimossi dalla memoria della resistenza italiana, almeno fino a quando, in anni recenti, il presidente Ciampi e l'allora segretario DS Veltroni penseranno a riabilitarli. Circola in queste pagine una tragica aria di famiglia che ricorda altre vicende simili. Il tradimento dei fratelli Cervi, la fine del comandante Facio, la strage di Porzus, pulizia ideologica e rivalse personali all'interno del campo partigiano comunista, nei confronti di chiunque non condividesse l'obbedienza cieca e assoluta alla Repubblica dei Soviet da installare in Italia. E tuttavia alcune caratteristiche rendono speciale questa vicenda. Al termine di allucinanti sedute di tortura nelle mani dei fascisti repubblicani, Neri, per un colpo di fortuna, riesce a fuggire. Gianna, invece, convinta di non tradire nessuno e ormai ridotta in condizioni fisiche pietose, svela ai militi di Salò i nomi di alcuni rifugi partigiani che avrebbero dovuto essere abbandonati da tempo. E invece no. Trasgredendo agli ordini, qualcuno è rimasto e viene catturato. Da quel momento, bollandoli senza appello come traditori, il comando partigiano garibaldino decreta per entrambi la condanna a morte, da eseguirsi come una fatwa islamista, in qualunque circostanza e da chiunque. Una vicenda assolutamente reale, eppure da romanzo. Sembra tratta dal celebre racconto di Sartre, Il Muro, in cui appunto la delazione involontaria e casuale di un prigioniero antifascista fa precipitare gli avvenimenti, finendo per simboleggiare il sottile confine che separa l'eroismo dal tradimento. La morale di Un amore partigiano ricorda insomma da vicino quella di Sartre, eppure Mirella Serri vi aggiunge un tocco ulteriore. L'incontro, avvenuto poco dopo la cattura di Mussolini e dei suoi a Dongo, fra la partigiana Gianna e Claretta Petacci, rivela due donne nemiche eppure simili, perché decise a seguire fino in fondo i loro destini e i loro uomini. A entrambe, seppure con motivazioni opposte, verrà riservata la dannazione della memoria e la congiura del silenzio. Ma a Gianna questo libro accorda la pietas e l'assoluzione definitiva per colpe non commesse. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Dario Fertillo, Storia di un amore e di altri misfatti ai tempi della Resistenza, dal Magazine 7 dell'11 aprile. Jeanette Walls è una giornalista americana di successo che per 20 anni ha tenuto nascosto il suo passato,